Soundcheck, il suono della musica di Gegé Telesco. Buon pomeriggio a tutti, pronti per il soundcheck di Radio 24. Avevo annunciato venerdì scorso, salutando Renzo Arbore, che questa puntata l'avremmo dedicata al soul, al funk, alla black music, ascoltando quindi James Brown, che sarà il primo artista che presenteremo in questo appuntamento. Il funk e il groove che tratteremo con un esperto del genere, un DJ che io ho conosciuto a Chicago molti anni fa, credo più o meno 20-22 anni fa, quando ho iniziato a lavorare per la Go Jazz Records di Ben Sidran. L'ho conosciuto lì, questo signore che per anni ha militato in alcune delle radio più importanti degli Stati Uniti, ha girato in lungo e in largo il suo paese, ha girato il mondo, oggi si dedica a musica ma anche alla sua cucina, è un esperto di soul food e forse viene più richiesto come chef di soul food che come disc jockey, anche perché, lasciatelo dire, Larry White, welcome at the soundcheck, ormai non è più l'età per fare il disc jockey, ma la passione per il funk e per il soul è rimasta sicuramente. Yeah, thanks for inviting me here. I'm very happy to be here, Mr. Gegé Telesco. You are my brother. I wanted to tell you this, that you are my brother and I love you. Io ti amo. I love you, Mr. Gegé Telesco, because you are funky. Now, when you come to WHOV in Louisiana, my radio station, La Stazione Radiofonica, no? Tu eri l'unico bianco, the only white man. Everybody, who's that? Who the white man? Who the white man? I said, Gegé Telesco, get him out. We don't want no white man in there. Non me lo ricordo, che mi volevano cacciare solo perché ero bianco. Yeah, because you don't got the funk. But then... No, I got the funk. No, well, we found that out later. Dopo, abbiamo capito. Then you start getting funky with the drums, with the pianos, with the voice. You did that do-do-do-do-do-do with that stuff with your voice, man. That funk is shit, baby. That funk is stuff. We like that so much. And they say, hey, give him something to eat. And we gave him mangiare, no? We gave him stuff to eat. And he said, whoa... That man, he's like a nigga. Look at that. Sì, è vero, perché tutto quello che mi proponevi e che anche le tue amiche cucinavano soul food, tutte quelle cose stranissime, non so neanche che cosa abbia mangiato, comunque a me piaceva, non mi dava fastidio al palato. And the food, the cibo nero fa diventare più nero, ti aiuta lo funk. Do you know what funk is? What is funk? What is funk? Funk is qualcosa di grasso. No, di no, funk is a sudore, the sweat. Sudore, that's right, baby. And the more you sweat, the more you get going, the more you eat that hot black food, all the beans, the chitlin, and the chicken, you start to sweat, you start to move, you get up and you get down, you get down, you get down and you get funky. Hey, man, give me five. Look at that. He moving. He getting sweaty. He getting funky. Go on and get it, brother. Yeah. One, two, three, four. Ah, that. And that's what funk is all about. You understand that? You sì, ho capito. You Larry... Funky. Let me tell you, JJ, you is funky, motherfucker. You are funky, yeah. No, sì, sono funky abbastanza. Ti prego, piantala. Cerca di avere un ritmo un po' più compassato, un po' più contenuto. Lo so che sei troppo funky e troppo groove. E questo era il ritmo che aveva Larry White nei suoi programmi radiofonici. Qual era il titolo di uno dei tuoi programmi importanti negli Stati Uniti? Funk. Funk. Così asciutto, yeah. Tanto per andare subito al super, essere esplicito. See, the second one is double funk. Double funk, ma poi io ne ricordo uno. I wanna get up to get down. Quello è il mio preferito. That was my fourth one. You gotta get up to get down. Ecco, allora, siccome questa sarà una puntata assolutamente funk, e l'avete capito, Larry, così come facevi negli anni 70, il brano è Soul Power e l'artista è James Brown. Vai. Ladies and gentlemen, hold on to your seats, damn. Hold on to your seats, because Mr. James Brown, soul brother number one in the world, see today, even though he's dead, is gonna sing for you Soul Power. Huh. You gotta get in the bracket. No, I like it. Huh. All right. Look at you. All right. Don't fall on the ground. You gotta get down, down, down, down, down. Huh. Don't fall on the ground. You gotta get down, down, down, down, down. Soul Power, il sound inconfondibile di James Brown. Anch'io, Larry, fatelo dire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere James Brown e ho anche avuto la possibilità di parlare con lui, di trattenermi quasi una settimana con James Brown quando in televisione c'era un programma che si chiamava Doc, e poi l'ho incontrato un anno prima della sua scomparsa a Umbria Jazz. C'erano gli amici di quella che allora era la Stream, adesso è Sky, una volta era Stream, e gli amici di Stream dovevano realizzare un servizio, e Tony Shargol, direttore della musica di Stream, mi chiese di fare personalmente un'intervista a James Brown. Quando entrai nel camerino, James Brown aveva i bigodini, era in canottiera e stava litigando con sua moglie, una donna bianca con i capelli rossi, che naturalmente sul palco affiancava James Brown come vocalist. Devo dire, non una grande vocalist, però io so per certo che James Brown ha sempre avuto la passione per le belle donne. Yeah, he liked the booty. He liked the booty. Now, questo qui sembra... No, gli amici forse non sanno che cos'è the booty, ma shake dal suono booty, si può capire. Shake, booty, what are you gonna shake? Cosa devi shakeare? No, sì. The booty. Shake your money maker. Sì. You shake con quello che fa i soldi, quello che devi scrollare, quello che fa i soldi. A James Brown ci faceva molto. He liked that, the booty, he liked that. Allora, questa donna, this one, was white. Sì, era bianca. But inside... Let me tell you, JJ, she was blacker than black. Questo è il soundcheck di oggi. Soundcheck. Check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Classico della black music, The Ghetto, per la voce inimitabile di Donny Hathaway, che ha fatto scuola. Sì, dopo Donny Hathaway sono arrivati Stevie Wonder, è arrivato George Benson, e Donny Hathaway con la sua vocalità, il suo modo di fare musica, ha condizionato la storia della black music fino ai grandi interpreti dell'hip hop di oggi. Donny Hathaway non ha una storia molto felice, perché purtroppo si è suicidato soltanto a 33-34 anni, avendo registrato soltanto 5 dischi. Ma resta un artista importantissimo per tutti coloro che amano la soul music. Tu hai conosciuto Donny Hathaway, Larry? Oh yeah, he lived in my house, abitato a casa mia, Donny. Very special man, very special man. How do you say in Italian? He was dotato. Dotato, esattamente come lei. He had a gift from God. God gave him. Grande talento, ecco, aveva un grande talento. Il Signore ha dato un grande, grande. Gli ha dato grande, grande. And when he walked in the streets, camminava nella strada, everybody would go, hey, there's Donny. Especially the women, la donna, guarda, hey, here's Donny. Well, you know why? You know why? Look at me, mother. Look, you know why he was? Because he was dotato. He had the big one. He was big Donny Hathaway, he had the biggest in the sì, era il più grande di tutti, lo so, allora era il più grande di tutti, però lui viveva questa cosa che gli altri avevano successo e lui non tanto, e infatti poi ha fatto quello che ha fatto. Passando da Donny Hathaway a altre storie, no? Poi tu a un certo punto, voglio ricordare agli amici di Radio 24 che ci stiamo intrattenendo piacevolmente con Larry White, ex disc jockey della black music negli Stati Uniti e oggi chef affermato di soul food. Stai andando molto forte con la tua cucina. Come mai, come hai fatto a unire queste due passioni, la musica e soul food? Money, my fine friend, money. Soldi, per soldi. Yeah, exactly, money. Now I could cook. Io sono, I know how to cook. Faccio the beans, fagiola. Can you say fagiola? Sì, yeah. Fagioli. Chicken, pollo, turkey. Chitlin and pig. Pork. Sì, quando hai detto pig mi è arrivata una sputacchiata. Scusami, Larry. Pig! No! Pig! You turn your head like... Pig is the most delicious meat, you know why? Sì, lo so, sei sempre stato un appassionato di maiale, no? Hai sempre cucinato il maiale. Perché ti piace il maiale? Sometimes it's soft. Sometimes it's morbid, no? Sometimes it's hard and it goes good with the fasula. E poi del maiale si mangia tutto, no? Everything. You don't throw nothing away. The ears, l'orecchia, the tail, Well, Chuchula, every week, don't throw nothing away from the pig, nothing. And when you eat a lot, tante mangi, it makes you get funky. Now, you know what funk is? You know no, abbiamo già detto del funky. It makes you get funky. It makes you get funky. You eat the pork, you eat the pig, and you get moving then, dude. No, Larry, I'm sorry. Larry. Give me the pig, I eat the pig. Larry. Fategli una siringa a quest'uomo, qualcosa che lo possa calmare. Larry, I have a question for you. Ho una domanda per te. Allora, la maggior parte degli artisti black, no, dei grandi cantanti, provengono dalla scuola tipica del gospel. Come mai dalla chiesa battista evangelica arrivano tutti questi talenti strepitosi? Perché stiamo per presentare la super band di uno dei maggiori esponenti del gospel contemporaneo, che è probabilmente il mio preferito. Si chiama Kirk Franklin, il brano è Brighter Day. Tu hai conosciuto Kirk Franklin giovanissimo, ma affermata stella del gospel americano. Perché? Qual è l'importanza del gospel nella black music? Lord and Lord and Lord, come down and let have mercy on my soul. Mr. Kirk Franklin used to pray in our church, in La Nostra Chiesa, right? Because it was a lunatic apostle place where all the black people could congregate and wouldn't be no trouble. You understand? Because the black people got together tutti insieme, altra parte. Sì, ma non solo i neri, perché ci siamo andati insieme e mi hanno accettato con grande affetto. Oh, many years after, dopo tante anni, no, dopo tante anni, even the white, poverini, bianchini, entrarono perché hanno capito un po' il funk. Non sono mai funky. You funky. You know why you funky? No. Eat the pig, yeah, give me the pig, I want the pig. But people could get congregated in the church. They get in the church and they would start singing and moving together. And they could all sit and sing together and nobody would give them anything. Sì, stanno tutti insieme, cantano insieme e mangiano il maiale, anche loro. Feel the praise of the Lord. The energy of the Lord came down and blessed us all. Okay, and that's how we all got funky. Lord, have mercy on our souls. Ti sei placato. Allora eccolo qui, Kirk Franklin con Brighter Day al soundcheck di Radio 24. Yo, everybody come get your bounce on, get your bounce on, get your bounce on. Don't be cute with it, you gotta get, come on. Fifth ward, fourth ward. Come on, sing it. Soundcheck, il suono della musica. Appuntamento molto complicato per me oggi, un appuntamento dedicato alla black music, trattato non so in che maniera, staremo a vedere quale sarà il risultato quando arriverà il feedback, con Mr. Larry White, ladies and gentlemen, ex disc jockey, chef di Soul Food, molto preparato musicalmente, ma credetemi, non è facile farsi raccontare le cose da Larry White perché probabilmente non ricorda tutto nei dettagli, c'è un po' di casino nella tua testa Larry White. Comunque siamo pronti per dare il via alla musica ancora una volta e vorrei presentarvi una delle migliori band vocali in assoluto nel mondo, dei ragazzi che vengono sempre come Kirk Franklin dalla scuola del gospel. Vi sto parlando dei Take Six, in questa versione meravigliosa di Sing a Song, brano scritto da Maurice White per i suoi Earth, Wind and Fire. Quindi questa è una cover, ma una cover d'autore perché prodotta da Marcus Miller. Tu hai conosciuto i Take Six? Oh yeah, they were fine young boys. They were fine young boys. We lived in the erano dei bravi bravi giovani ragazzi quando li ha conosciuti. Diciamo la vita nello stesso quartiere, no? Because all'epoca io ero padrone di how do you say what gym a play di una palestra. Lavoravi, ma eri proprio the owner of the gym club? No, I was the manager. Ah, il manager. Figuriamoci. And I had the restaurant in the gym. Ah, vivi il ristorante nella palestra. Ah, quindi facevi quello che fai adesso, il cuoco. Quando fai palestra, ci viene la funk e poi ci viene la fame. Understand? Sì, che la domanda era precisa, Larry, per favore, cerchiamo di stare. Tu hai conosciuto i Take Six? Yeah, okay, so I was in the gym, I was taking a shower, right? I was in the shower, I was getting funky in the shower. I'm funky all the time. Io sono funky anche nella shower. Larry, ho capito. Com'è possibile che tu hai conosciuto i Take Six nella doccia della palestra? So, the man come in and he said he has five young boys, cinque ragazzi bravi, no? To come and play basketball. basketball, because on a team of basketball squads, there are five. There are five people. I said, have them come in, fa entrare nella doccia. So these fine young men come in all naked, nudi, and they came in, one, two, three, four, five, and another one, six. Ecco, allora, come fa una squadra di pallacanestro a averne sei? Questa è lì che vuoi arrivare, no? Exactly. So I said, I can't take six. No. And I said, well, then I heard them play, you know, I said, that's a good name. Cioè, hai dato il nome Take Six perché tu hai detto Take Six, I can take six. Non posso prendere sei ragazzi play basketball, a giocare a pallacanestro perché me ne servono cinque. E exactly. Lì è nata la cosa. So they said, noi che facciamo adesso se non giochiamo a basketball? I said, andate a suonare. Vai, vai a suonare. Perché a basketball ci vuole un five. E voi siete sei, quindi non potete giocare a pallacanestro, potete suonare in sé e vi chiamerete così Take Six. Quindi, I can take six. I can only take five. Questa è una delle più grandi stupidaggini che ho sentito raccontare in oltre 35 anni di carriera Larry White. Però una cosa è certa, che i Take Six sono favolosi anche qui al soundcheck di Radio 24. Siamo ai saluti finalmente, finalmente devo dire, perché è stata una puntata difficilissima, ho sudato freddo, I got the funk, veramente, I cold sweat, eh? Proprio ho sudato, mi hai fatto sudare freddo, come diceva la canzone originale di James Brown, no? Visto tutto ritorna e spero che non ci sia un feedback negativo su questo appuntamento che abbiamo realizzato qui su Radio 24, che dovresti sapere che è una radio importante, che ha un suo appeal, un suo mood, ok? Fine brother, you're doing good music. Buona musica, you're doing a fine job, un lavoro fino, tu sei bravo, you're funky, you're white, but you're funky. Sono bianco ma funky. Allora, per dimostrarti che sono funky al 100%, chiudo il programma con Robert Glasper, che ha vinto il Grammy Award per l'R&B nella passata edizione della consegna dei Grammy Award con un album intitolato Black Radio, in attesa della nuova pubblicazione che sta per arrivare. Ecco qui Robert Glasper con Lady Easy, fantastica vocalist, in Gonna Be Alright. Vuoi chiudere tu salutando il tuo pubblico e i tuoi affezionati sostenitori e anche tutti gli amici che conoscono bene la tua cucina? Yeah, thank you very much. Come and eat in my restaurant. Mangiare il mio ristorante. And amici di Radio 24. 25. No, 24. 24. Ladies and gentlemen, you gotta get up to get down. Okay. Soundcheck. Il suono della musica.